domani abbiamo lanciato questa manifestazione come Link Bologna, Xeno e Ritmo Lento. Da un po' di tempo appunto i percorsi, insomma, cittadini, universitari e studenteschi si sono intrecciati per provare a discutere insieme delle norme repressive, insomma, che in tutte le loro forme, le più diverse, insomma, forme, reprimono le forme di autodeterminazione, come vediamo nel caso del decreto Salvini, che ormai è anche passato in Senato, ma su cui appunto la nostra città ha presentato un ODG per la sospensione. Noi crediamo che questa sospensione debba partire sin da subito con delle richieste chiare, che oggi abbiamo presentato in comune attraverso una lettera. Allo stesso tempo noi come studenti e studentesse diamo appunto certezze rispetto agli investimenti sui luoghi della formazione. Non crediamo che la sicurezza si faccia con il piano scuole sicure portato avanti appunto dal governo giallo-verde, da Salvini, che credo che la sicurezza, insomma, si faccia con i controlli antidroghe, non con gli investimenti sul diritto allo studio, sull'edilizia scolastica. E chiaramente la nostra contrarietà sta anche su un piano su cui già ci siamo mossi anche col collettivo La Maleducazione, cioè rispetto al DDL Pillon, che noi crediamo limiti appunto la libertà scelta delle donne, limiti il diritto al divorzio, e chiaramente ripropone anche un'idea salviniana, leghista, in piena continuità anche con i governi passati del Fertility Day, insomma, ripropone un'idea legata chiaramente al matrimonio obbligatorio, all'assenza di autodeterminazione sui propri corpi e sulle proprie vite. In questo senso appunto la manifestazione nasce da, diciamo, la piena e concreta opposizione a questi tre provvedimenti, ma anche a tutto un piano più largo rispetto alla città di Bologna. Ci stiamo muovendo da tanto tempo anche sulla questione abitare, pensiamo che una rivendicazione che vada tenuta anche rispetto al piano di trasformazione che può, diciamo, concretarsi dopo l'approvazione del decreto Salvini, e quello appunto di limitare le libertà all'interno delle nostre città e di riproporre una retorica del decoro, dell'oppressione. Noi crediamo che Bologna debba, diciamo, ribadire anche di essere aperta, solidale, e in questo senso anche noi in quanto studenti fuori sede universitari rivendichiamo un diritto alla città e alla casa per tutte e tutti, così come appunto le altre rivendicazioni che abbiamo portato oggi in comune contenevano. E questo, diciamo, è un po' la piattaforma da cui è partita la nostra mobilitazione di domani. Domani tutte e tutte in piazza del Nettuno alle ore 17 per la mobilitazione Spezza le catene contro la repressione.